Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori e dopo aver celebrato la nostra 200ª puntata torniamo nello specifico nei casi concreti, un tema un po' complesso da capire ma ci facciamo aiutare bene, quello dei tassi usurari. Ben trovata l'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale Adico. Ciao Mirko, buongiorno a tutti. Dunque, tassi usurari applicati su quale settore? Beh, guarda, quando parliamo di tassi usurari facciamo riferimento a tutti quei contratti di mutuo, di finanziamento, tutti quei prestiti che vengono erogati da istituti di credito o dalle cosiddette finanziarie. Quando parliamo di tasso di usura intendiamo tutti quei tassi che superano il tasso legale, ovvero quel tasso che trimestralmente viene fissato dalla Banca d'Italia. Ecco, secondo la nostra ricerca, qui noi di Adico, abbiamo riscontrato che a fronte di circa 50 contratti analizzati, uno su tre risulta gravato da tassi usurari. Cosa significa? Che un consumatore su tre ha diritto ad avere il ristoro di tutti gli interessi che ha pagato in eccesso. E quindi contratti che sono in essere evidentemente per prestiti, per finanziamenti, per mutui, in realtà sono irregolari o sono fuori legge, cioè questo ci stai dicendo? Esatto, sono sostanzialmente dei contratti che sono stati stipulati in contrasto con l'articolo 1815,2 del codice civile, che è proprio la norma del nostro codice che ha il compito di vigilare insomma la correttezza nell'applicazione dei tassi in questo tipo di contratti. Questa norma cosa ci dice? Questa norma ci dice che ogni qualvolta noi dovessimo riscontrare che un tasso rientra nell'usurarietà, il contratto di prestito, di mutuo o di finanziamento rimane in vita, ma quella clausola, ovvero tutta la clausola che prevede gli interessi, deve essere considerata nulla. E questo ci dà diritto a cosa? Ci dà diritto a vederci rimborsati tutti quegli interessi retroattivamente che abbiamo pagato nel corso degli anni, retroattivamente, quindi tutto ciò che ne abbiamo pagato indebitamente, e in più ci dà diritto per il futuro a non versare altri interessi. Quindi sostanzialmente a cosa ci dà diritto? Allora, per il passato, alla restituzione di quanto ne abbiamo pagato a titolo di interesse, non solamente la parte di interesse usuraria, ma all'intero interesse. Mentre per il futuro ci dà diritto a continuare a corrispondere a tenere fede ai nostri impegni economici, corrispondendo solo la somma capitale, quindi la somma senza gli interessi. Ecco, quindi ci sono delle possibilità effettivamente concrete. Per cercare di tradurre concretamente, si può dare un'indicazione anche per chi ha magari dei contratti già aperti di questo tipo, dei mutui, dei finanziamenti, di quant'è un tasso usurario? C'è una misura che si può dare oppure no? Allora, guarda, privatamente non è possibile dare delle indicazioni specifiche, perché ogni caso a sé. Cioè il calcolo per valutare se un interesse di quelli indicati in questi contratti è usurario o meno può essere fatto solamente da un soggetto esperto. Quindi l'unico consiglio che io posso dare è quello, nel caso in cui una persona volesse valutare se il proprio contratto prevede degli interessi usurari o meno, è quello di rivolgersi ad un esperto. Noi in Adico abbiamo anche messo a disposizione un esperto che effettua questo tipo di perizia ad un costo irrisorio, assolutamente convenzionato. Poi, a fronte del parere dell'esperto che provvederà insomma poi a redigere un parere vero e proprio e a certificarlo, si può tentare un approccio bonario con la banca al fine di farsi restituire appunto questi interessi pagati indebitamente. L'indagine appunto che voi avete fatto, queste perizie, diciamo così, dicono che c'è una parte significativa di contratti che applicano dei tassi usurari. Chi è che se ne è accorto? Cioè, è stato il cliente oppure è un campione che avete studiato voi? No, in realtà noi ci siamo mossi un po' sulla scia anche di questo fenomeno, che è stato anche insomma messo in risalto anche da alcuni programmi televisivi. Quindi noi sulla scia di questo fenomeno, che è un tema molto caldo in questo periodo, abbiamo lanciato questo tipo di offerta, cioè, quindi ci siamo attrezzati per offrire un servizio completo. Dopodiché noi abbiamo lanciato questo nuovo tipo di servizio, i nostri soci hanno risposto molto bene. Abbiamo visto che c'è stata un'affluenza in sede veramente, cioè, veramente notevole, che continua ad aumentare sempre di più anche a fronte dei risultati ottenuti. Ecco, per avere delle informazioni basta magari rivolgersi o cercare sul sito della Banca d'Italia, se non sbaglio, che è insomma l'organo ufficiale che stabilisce queste soglie. Esatto, sì, intanto sul sito della Banca d'Italia è possibile scaricare quella che è la tabella di tassi. Di tassi soglia, che come dicevo prima varia trimestralmente. Dopodiché, per quanto riguarda il calcolo, io consiglio sempre di affidarsi ad un esperto. Perché magari si tratta di virgole, decimali, percentuali, insomma i calcoli non sono così semplici. No, esatto, perché c'è proprio una precisa operazione da fare, poi io non entro neanche in merito perché non è di mia competenza. Nessuno di noi due è ragioniere, esatto. o contabile. O commercialista, o no? Commercialista, esatto, perché effettivamente io adesso ho fatto una ricerca mentre tu parlavi, tasso di usura terzo trimestre 2013, tassi di interesse effettivi globali medi, è il famoso TAEG, giusto? Sì, esatto. Quello che poi leggiamo anche nelle pubblicità, il TAEG, rilevato, io vedo dei numeri che vanno da un 3 a un 12, a un 15% addirittura, quindi davvero c'è molta variabilità e varia a seconda dell'importo e a seconda del tipo di contratto, leasing, credito, finanziamenti, aperture di credito, crediti revolving, insomma la casistica è molto varia, quindi non si può generalizzare. No, certo. Esatto. Quindi bancaditalia.it oppure l'Adico, che è sempre a disposizione con un apposito sportello anche per queste questioni, esatto, che rischiano magari di farci pagare tanti soldi, tanti interessi inutilmente. Grazie all'avvocato Gioia Barbato, alla prossima. Grazie a te, buongiorno a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.